semplicemente non è indagata lei, sono indagati altri, e al contrario della reazione del Parlamento che ha balbettato per mesi tagliuzzando la metà dell'ultima tranche del rimborso quando si è discusso il finanziamento pubblico ai partiti dopo il caso Lusi, in 5 giorni ha tolto tutti i fondi che c'erano per i gruppi consiliari. Credo che insomma abbia dato una lezione al Parlamento, però si è dimessa lei, il Parlamento non è stato sciolto, cioè lei doveva sapere quello che combinava Fiorito, mentre che so Rutelli non doveva sapere quello che faceva Lusi. È un po' curioso. C'è una maledizione però sulla poltrona del presidente della regione Lazio, insomma. Sono pronto a dimostrare il contrario. Cioè che ho capito, però ma non ricandidandosi, no, no. E chi lo può dire?